2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 23 gennaio 2010, benvenuti o bentornati a 2024. Da questa settimana abbiamo cambiato il nostro consueto orario di messa in onda dalle 16 alle 17 del sabato pomeriggio. Come sempre, anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sistema podcast, quindi sul nostro sito internet www.radio24.it. Vi ricordo anche il nostro indirizzo digitale di posta elettronica se volete scriverci: 2024, quindi 2024@radio24.it. Iniziamo questa settimana da una notizia che arriva da New York, dal New York Times, che inizierà a fare pagare per gli articoli sul proprio sito web dal prossimo anno. Il progetto si basa su un sistema come quello del Financial Times, forse il più famoso, che permette la visione di un certo numero di articoli in un mese, superato il quale bisognerà pagare. Naturalmente gli abbonati alla versione cartacea del New York Times avranno accesso gratuito al sito del quotidiano. Internet, lo diciamo spesso, è diventata per molti italiani, per tutti i cittadini del mondo occidentale in modo particolare, e per quasi tutte le aziende una necessità. Diciamo spesso che l'Italia soffre di una scarsa diffusione di collegamenti, quindi ha problemi sul lato infrastrutturale, ma anche soffre di una cultura informatica che fatica ad affermarsi. Diciamo anche che i politici italiani faticano ad accorgersi dell'importanza che queste cose hanno per la crescita economica del paese. Alla fine si finisce per finanziare autostrade d'asfalto piuttosto che quelle digitali. Come ha avuto modo di dire recentemente, qualche mese fa, Gabriele Galateri di Genola, che è responsabile dello sviluppo per la banda larga all'interno di Confindustria, nonché presidente di Telecom Italia, nel governo c'è poca determinazione ad investire in questo settore. Anche ieri il ministro Scajola ha detto che la costruzione di una rete in fibra ottica di nuova generazione è importante quanto lo è stata la costruzione dell'autostrada del sole negli anni 60. Il ministro ha, tra l'altro, rilanciato l'ipotesi di una società unica partecipata da privati ed istituzioni per la costruzione di quello che gli esperti chiamano Next Generation Network, quindi la rete di prossima generazione in fibra ottica. Siamo però ancora sul fronte delle parole, quindi ancora il dibattito è aperto. In ogni caso se ne parla, questo è un bene. Si parla anche in questi giorni di un bonus internet per le famiglie. Nelle bozze che stanno circolando del pacchetto sviluppo si parla di un incentivo pari a 50 euro per l'acquisto di un nuovo computer in abbinamento ad un collegamento internet a banda larga. Ci si pagano poco più di 2 mesi di collegamento, insomma poca cosa se pensiamo che il collegamento ad internet è un costo che poi ci portiamo dietro per tutta la vita. Forse bisognerebbe intervenire proprio su quel fronte con una misura permanente sul costo del collegamento a internet. Comunque ben vengano anche queste misure. Sicuramente un contributo fondamentale lo stanno dando le elezioni imminenti, quelle di primavera regionali. Cambiamo argomento. Da giovedì Nokia ha rinnovato la propria offerta di mappe gratuite disponibili su molti dei propri telefoni. Ha lanciato Ovi Maps 3.0 e la novità, che alcuni definiscono rivoluzionaria per il mercato, è che da ora la navigazione è gratuita. Quindi uno smartphone può trasformarsi in un navigatore satellitare GPS. Finora era possibile scaricare gratis sul proprio telefono le mappe di 180 paesi, ma il servizio di navigazione, come dicono gli esperti, turn by turn, quindi curva dopo curva, era a pagamento. Vista una serie di cose che sono accadute sul mercato in queste ultime settimane, Nokia ha deciso di accelerare su questo fronte. Sicuramente una mossa molto interessante per i consumatori e una buona mossa per la competizione in questo mercato. Ecco che cosa cambia, soprattutto come cambia lo scenario, secondo Alessandro Mondini Branzi, che è amministratore delegato di Nokia Italia, intervistato da Stefano Cavallaro di Cellulare Magazine. Beh, io credo che questa mossa di Nokia faccia in modo che la navigazione diventi una applicazione standard di qualunque smartphone, allo stesso modo di quello che è successo per esempio per i messaggi di testo. A un certo punto Nokia introdusse la possibilità di scambiarsi messaggi testuali con i telefoni cellulari, con i primi telefoni GSM. Questa ormai è una feature standard che ha rivoluzionato il modo di utilizzo dei telefoni cellulari. Lo stesso è successo con le macchine fotografiche. Abbiamo integrato una macchina fotografica digitale nei nostri terminali e siamo diventati in pochi mesi il primo produttore al mondo di macchine fotografiche digitali. La navigazione diventerà un'applicazione, un utilizzo standard dei nostri smartphone. Non solo diventerà un'applicazione standard dei nostri smartphone, ma arricchirà la nostra possibilità di interagire con le nostre social network, perché la navigazione di Nokia Maps 3.0 oltretutto integra Facebook, cioè io posso automaticamente aggiornare il mio stato su Facebook non soltanto rispetto a che cosa sto facendo, ma anche a dove sono, corredandolo di fotografie che contengono la geolocalizzazione e così via. Beh, insomma, si fa quello che qualche anno fa la stessa Nokia aveva battezzato come geotagging, cioè il collegamento tra una foto e un luogo basandosi sulle informazioni raccolte con le GPS. OviMaps 3.0 è disponibile al momento per una decina di smartphone di Nokia e da marzo sarà precaricato su molti dei nuovi smartphone dotati di ricevitore GPS, perché ricordiamoci, la condizione necessaria è che ci sia il ricevitore di GPS, che oramai è diffuso su molti telefoni, ma naturalmente non su tutti, soprattutto quelli più economici. Il servizio di navigazione è disponibile per 74 paesi in tutto il mondo, in 46 lingue, può essere caricato naturalmente da ovi.com o da nokia.it. Ma se la navigazione satellitare diventa una commodity, cioè un servizio gratuito disponibile su terminali diffusi come i cellulari, cosa ne sarà dei navigatori da auto? Probabilmente continueranno ad evolversi e ad esistere, così come continuano ad esistere le macchine fotografiche o i lettori MP3, nonostante i telefoni cellulari ormai facciano entrambe queste cose. In ogni caso, un po' di timore c'è sul mercato, tanto che TomTom, quindi il più importante e più noto produttore di dispositivi per la navigazione satellitare da auto, TomTom nel giorno dell'annuncio di Nokia ha perso in borsa il 10%. Ma perché Nokia ha deciso di fornire questo servizio gratis? Perché Google dallo scorso novembre offre un servizio che si chiama Google Maps Navigation come servizio ulteriore per alcuni telefoni con sistema operativo Android. In entrambi i casi ci sono vantaggi e svantaggi. Il primo è che il servizio di Google funziona anche senza ricevitore GPS, perché si basa su una triangolazione fatta con la rete di telefonia mobile, quindi con le antenne, con le celle del sistema GSM, mentre Nokia funziona solo con ricevitore GPS. Il servizio di Google richiede però l'accesso ad internet, quindi si paga questa connessione, mentre Nokia può funzionare anche solo con le mappe precaricate. Questo è sicuramente un beneficio per il portafogli. Nel servizio precaricato sono già incluse tutte queste funzionalità. Naturalmente queste funzionalità possono essere arricchite, ad esempio le funzionalità tecniche di pura navigazione tramite l'assistant GPS, che permette una localizzazione più rapida. E questo richiede un collegamento che può avere un costo, dipende dai piani tariffari, così come le informazioni rispetto al luogo in cui ci si trova, informazioni riguardo agli eventi, al traffico, che devono essere continuamente aggiornate, richiedono un collegamento, e un collegamento che si farà naturalmente via internet. Quello che è importante capire è che però per i consumatori non ci sono costi nascosti, nel senso che non ci sono collegamenti che partono in automatico e non ci sono sistemi che poi lasciano collegamenti aperti o cose di questo genere. E il servizio è pienamente utilizzabile anche senza attivare alcun collegamento. Cambiamo argomento. A proposito di notizie della settimana, ce n'è una di oggi che riguarda il Papa. Può sembrare strano parlare del Papa in un programma dedicato alla tecnologia, ma oggi Benedetto XVI, nel messaggio per la 44esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, scrive che si sta aprendo l'era dell'evangelizzazione del web. Il Papa ha invitato la Chiesa intera a guardare a internet con entusiasmo e audacia e ha esortato i sacerdoti a diventare navigatori della rete, a partecipare ai social network e a portare la parola di Dio nel grande continente digitale. Sicuramente una parola molto moderna del Papa, che a volte può sembrare molto lontano da questi temi. Adesso ascoltiamo una voce che ci introduce ad un altro tema di cui ci occuperemo tra poco a 2024. The United States and China have different views on this issue, and censorship should not be in any way accepted by any company from anywhere. quella che parla è Hillary Clinton e dice che gli Stati Uniti e la Cina hanno visioni diverse sull'argomento internet, ma le aziende americane devono rifiutare la censura sulla rete. Questo è un intervento del segretario di Stato americano Hillary Clinton di questa settimana, seguito poi da una presa di posizione anche di Barack Obama. Il presidente è intervenuto nella querela, nel braccio di ferro che pone da un lato gli Stati Uniti, dall'altro la Cina. Vi ricordo che il nostro programma è disponibile anche all'interno del nostro servizio podcast. In questo modo avete la possibilità di scaricare in maniera regolare e anche automatica, se lo volete, il nostro programma, il file MP3 della nostra trasmissione settimana dopo settimana. Tutte le istruzioni sono online su www.radio24.it oppure inviateci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, questo è 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Abbiamo parlato di Google all'inizio della nostra puntata, abbiamo fatto riferimento a un servizio di mappe, ma riparliamo di Google perché probabilmente molti di voi avranno seguito anche all'interno dei nostri giornali radio questo braccio di ferro che oramai contrappone anche a livello diplomatico gli Stati Uniti alla Cina, perché Google qualche giorno fa ha denunciato una serie di violazioni ai propri sistemi, in modo particolare un'intrusione ad alcune email di alcuni attivisti per i diritti umani, attacchi provenienti dalla Cina che hanno coinvolto anche altre aziende americane. L'annuncio di Google ha sollevato il velo su un fenomeno crescente, quello dello spionaggio digitale. E visto che le informazioni sono oramai il bene più prezioso per le economie occidentali, e potremmo definirle le economie digitali, a difesa di quello che sta accadendo sono arrivati anche il segretario di Stato Hillary Clinton, che abbiamo ascoltato poco fa, e anche Barack Obama, che ha chiesto spiegazioni alla Cina, e soprattutto tutto il mondo politico e diplomatico americano ha condannato questi atti fatti dalla Cina. Poi c'è anche un fronte relativo ai diritti umani, la minaccia di Google di abbandonare le imposizioni del governo cinese, ma di fatto sotto questa vicenda, dicevo, c'è lo spionaggio digitale e un grande business che naturalmente fa gola a tutte le aziende in Cina, ma forse in questo caso il livello si è spostato su un altro fronte. Allora, per capire che cosa sta succedendo, che cosa è successo, io saluto Gigi Tagliapietra, che è presidente del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Benvenuto a 2024. Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato. Che cosa sta accadendo, cioè dietro alle notizie che stiamo commentando in questi giorni? Possiamo parlare di battaglia? Qual è il dietro le quinte? Ma il dietro le quinte è che già dal 2007, quando ci fu l'attacco all'Estonia, ci fu un grave attacco informatico all'intero paese in Estonia legato alle vicende della statua del soldato russo, ci si è resi conto che la dimensione degli attacchi informatici poteva arrivare ormai facilmente a colpire un intero paese. Proprio in quel caso fu fatta intervenire la NATO. Si dice appunto che l'attacco fu fermato proprio da telefonate fra capi di Stato che hanno detto adesso smettetela. Quindi da quel momento ci sono state più volte a livello di esperti, io ho fatto parte di uno di questi gruppi, analisi di che cosa significava la nuova frontiera degli attacchi informatici rispetto alle nazioni, e questo è una consapevolezza, cioè la rete internet è diventata enorme, diffusa, grandissima, ed è ovvio che venga usata anche per, come è sempre stato in fondo, per danneggiare un paese rispetto all'altro. Questo è quello che c'è dietro. Il caso di Google diciamo, è un fatto di cui si parla molto, sia perché Google fa parlare di sé, sia perché gli Stati Uniti fanno spesso notizia, ma in questo caso potremmo dire che stiamo assistendo ad una cosa che già da qualche anno sta accadendo in rete, anche se poco ce ne accorgiamo, però in questo caso forse la Cina ha un po' esagerato. Ma tutte le guerre di spie sono sotterranee. Pensiamo a fatti di casa nostra, alla faccenda di Abu Omar, poi si fanno beccare e a quel punto diventa un caso diplomatico. Nel caso di Google e della Cina, certamente il problema è che quelli di Google sono bravi, se ne sono accorti, si sono difesi e hanno creato il caso, e quindi dall'altra parte sono stati scoperti. È come se avessero scoperto delle spie che fotografavano segreti militari in Silicon Valley, no? Diventa un incidente diplomatico. In realtà quello che c'è sotto è che attraverso la rete si creano importanti sfide dal punto di vista economico, e attraverso la rete si combattono altrettante guerre di natura economica, perché a pensarci non è un attacco dalla Cina agli Stati Uniti, ma è un attacco da hacker non meglio identificati cinesi a un'azienda privata, a un set di aziende private. Peccato che queste rappresentino in fondo un aspetto rilevante dell'economia americana, ed ecco che diventa un incidente. Questo è un fatto che interessa anche al privato cittadino che è davanti al proprio computer che naviga in rete, o di fatto siamo ad un livello così grande, così importante e complesso che ahi noi non ci riguarda? Ma il grande cambiamento è proprio qui. Molti degli attacchi su larga scala, come vengono effettuati? Vengono effettuati utilizzando quella che tecnicamente si chiama una botnet, cioè una rete di computer compromessi. In parole povere, sulle macchine di ignari cittadini in giro per il mondo, e stiamo parlando di milioni e milioni di macchine, viene installato un pezzettino di software, quindi può essere anche sulla tua macchina, su quella di mia zia. Questo pezzettino di software se ne sta lì dormiente, fino a che un giorno da un computer centrale arriva un ordine che dice a tutte queste macchine compromesse: andate ad attaccare quella certa macchina là. Attaccare vuol dire generare traffico, che a questo punto è come se arrivasse un sacco di posta contemporaneamente nella mia cassetta. Io non posso più usare la mia cassetta della posta. Ovviamente, essendo migliaia e migliaia e migliaia di macchine da tutto il mondo che attaccano, è come essere attaccati da una squadra di piragna anziché da uno squalo. Cioè, lo squalo lo vedo, i 10.000 piragna sono veramente molto perniciosi. E quindi il problema è questo, che mentre si pensava sempre che i singoli dovessero difendersi da intrusioni nelle proprie macchine, i singoli cittadini rischiano di diventare inconsapevoli artefici di attacchi ad altri. Quindi viene usata la mia macchina per attaccare un altro, è come se venisse usato il mio garage lasciato aperto per sparare addosso a qualcun altro. Ed ecco perché si dice che la frontiera, il futuro della sicurezza informatica, è fatto dal fatto che tutti devono essere consapevoli che sono parte della sicurezza, cioè che la difesa e la tutela delle singole macchine, dei singoli utenti, è indispensabile quanto le grandi strategie a livello di paesi, o addirittura, come nel caso dell'Europa, a livello di continente. Ecco, a proposito di strategie continentali o nazionali, sappiamo che gli Stati Uniti hanno finalmente, dopo una lunga ricerca, un responsabile per la sicurezza nazionale. In questo caso la sicurezza è la sicurezza informatica. Che cosa succede o che cosa non succede in Italia? Ma diciamo, c'è di buono che a livello europeo, con mille fatiche, esiste un'agenzia che è l'ENISA, che è l'agenzia che ha proprio lo scopo di lavorare a costruire a livello sovranazionale, perché non dimentichiamoci che Internet distrugge una cosa a cui noi siamo abituati emotivamente, che sono i confini, cioè non esiste in Internet il confine nazionale, i bit non è che si fermino alla dogana di Chiasso e quindi la risposta a queste iniziative è solamente una risposta sovranazionale, e l'Europa si sta muovendo bene, con attenzione molto grossa al ciberterrorismo. In Italia diciamo che abbiamo una grandissima capacità per quanto riguarda il contrasto del crimine, la Polizia delle Comunicazioni sta facendo un lavoro straordinario contro la pedopornografia, contro la truffa online, davvero sono molto bravi. Secondo me non si sta trasformando in azione invece la difesa dell'infrastruttura. 3 anni fa il Ministero delle Comunicazioni finalmente ha definito l'infrastruttura informatica come un'infrastruttura critica del paese, al pari delle strade, degli aeroporti, dei sistemi bancari. Anche l'infrastruttura di telecomunicazioni, la rete, è definita una struttura vitale per il paese. Poi bisogna però dargli gambe. Do un esempio: il BSI, l'ente per la sicurezza tedesco, ha 500 persone che ci lavorano. In Italia credo che siamo a livello di poche unità o di poche decine a fare questa attività, tenendo conto che l'Italia per 3 anni ha vinto il campionato mondiale di hacking, cioè questa è un'altra cosa che non si sa, che le università italiane hanno per 3 volte battuto le altre università in giro per il mondo nella sfida che si chiama Capture the Flag, che è il campionato mondiale di attacco e difesa informatica, quindi campioni del mondo in questo momento, diciamo, sottoutilizzati. Quindi abbiamo grandi competenze poco o male organizzate. In questo momento direi di sì, però credo che cresca la competenza, la consapevolezza, perché la competenza c'è. Il problema è capire che bisogna muoversi non tanto facendo le leggi così sull'emozione, sull'ondata del momento, come è accaduto dopo gli attentati, si fanno i decreti per bloccare la rete qui e là o la censura. Occorre davvero un'iniziativa che difenda questo patrimonio straordinario che è la rete. Grazie a Gigi Tagliapietra per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Dicevamo poco fa che l'Italia ha grandi competenze anche all'interno di questa area molto complessa, quella della sicurezza informatica, che abbiamo vinto premi perché siamo molto capaci di o proteggere i nostri sistemi o di attaccare altri sistemi. Comunque abbiamo competenze molto elevate, ma finora mal organizzate. Anche se le forze di polizia hanno fatto grandi passi in avanti, ne abbiamo parlato anche a 2024, ma forse come spesso accapita nel nostro paese è l'organizzazione, il sistema e il collegamento anche tra queste forze di polizia attraverso una strategia generale. Ma a livello globale i governi sono consapevoli di queste minacce? L'abbiamo chiesto ad Alistair McWilson, che si occupa di sicurezza a livello mondiale per Accenture. Governments are aware that this is a growing problem. That's for sure. I governi sono consapevoli che questo è un problema che sta diventando sempre più importante. Detto ciò, molti governi hanno compreso che si tratta di un tema che tocca tutto l'insieme del business e dei servizi pubblici, quindi non è una cosa che si può affrontare in un mese, in un anno o forse in 2, 3, 4 anni. È un problema di lungo periodo che ha bisogno di una soluzione di lungo termine. Dunque, quello che molti governi stanno facendo è costruire un'organizzazione che guardi al problema con una prospettiva nazionale ed europea assieme alle agenzie europee. Se lei va indietro nel tempo di 30 o 40 anni, Le regole della circolazione stradale in Italia erano diverse da quelle della Francia, della Germania o della Gran Bretagna. Lentamente, nel corso degli anni, i governi europei hanno armonizzato queste regole, creando standard sulla costruzione delle strade o dei veicoli che devono circolare. La stessa cosa deve accadere nel mondo connesso delle infrastrutture informatiche. That has to happen across the connected world in terms of the IT infrastructures. Senta, quali sono nel mondo i paesi più avanzati da questo punto di vista? You have national governments like the US government, which has got a presidential directive. Dunque, abbiamo governi nazionali come quello degli Stati Uniti che hanno un indirizzo presidenziale per rispondere alla minaccia digitale e c'è un sacco di denaro pubblico che viene speso affinché questo accada, sia a livello industriale che pubblico. They want to make sure their railroads, vogliono essere sicuri, insomma, che le ferrovie, le industrie chimiche, le catene alimentari, eccetera, siano protette. E questo è un programma di lungo periodo. Comunque, per rispondere alla sua domanda, quali sono i paesi più sofisticati da questo punto di vista, direi che ci sono due dimensioni. Ci sono alcuni paesi, come gli Stati Uniti, che stanno veramente assumendo una posizione di leadership. And there are some in Europe, like the Scandinavian countries. Germany in particular. Oppure alcuni paesi europei come quelli scandinavi o in particolare la Germania che sono molto attivi in questa area. There are other countries which may surprise you, like Malaysia. Ci sono altri paesi che potrebbero sorprenderla, come la Malesia, per esempio, che crede in un futuro mondo digitale interconnesso. La Malesia ha costruito un intero villaggio digitale per sviluppare progetti o idee su un mondo interconnesso. E visto l'interesse del governo anche sui temi della sicurezza, l'Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni delle Nazioni Unite ha costruito a Kuala Lumpur un centro per lo studio delle minacce informatiche col supporto del governo malese. Nel centro si studia l'impatto che può esserci sul sistema delle comunicazioni e quali dovrebbero essere le risposte. E questo è uno sguardo internazionale sul problema. A proposito di sicurezza informatica, dopo l'allarme lanciato dalla Germania, che come abbiamo sentito è molto attenta a questi temi, un allarme seguito anche dalla Francia sulle debolezze di Internet Explorer, che i due stati hanno sconsigliato agli utenti, la Microsoft ha corretto alcuni problemi e giovedì 21 gennaio ha rilasciato un bollettino straordinario per la sicurezza. Il consiglio è quindi di eseguire l'aggiornamento di Windows se non è già abilitata la funzione di aggiornamento automatico. I problemi per la navigazione, per il programma di navigazione della Microsoft sono emersi in occasione degli attacchi alle infrastrutture di Google e di altre aziende americane partiti dalla Cina di cui abbiamo parlato poco fa. Nel frattempo anche la Mozilla Foundation ha rilasciato una nuova versione di Firefox, quindi non si tratta di un aggiornamento ma di una versione nuova, la 3.6 in attesa della 4 che arriverà forse tra qualche mese o addirittura il prossimo anno. Vi consigliamo di scaricare questa nuova versione. Firefox, lo ricordiamo, nel mondo ha una quota di mercato che sfiora il 25% e che sale al 35% in Europa. Cambiamo argomento. La Federazione Antipirateria Audiovisiva ha presentato un ricorso contro Telecom Italia chiedendo al giudice di ordinare alla società telefonica di inibire l'accesso a tutti i propri utenti ad una decina di siti internet attraverso i quali verrebbero rese disponibili film, ad esempio, protetti dal diritto d'autore. La cosa fa discutere molto in rete. FAPAV, la federazione di cui stiamo parlando, avrebbe scoperto che da settembre 2008 a marzo 2009 ci sono stati 2,2 milioni di download di 9 film e in oltre un milione di casi sono stati fatti da utenti Telecom Italia. Telecom respinge le richieste perché, scrive nella contromemoria del ricorso, si basano su prove raccolte in modo illecito violando i diritti degli utenti. Telecom Italia scrive che la violazione della FAPAV è grave perché nemmeno un operatore è in grado di sapere su quali siti ha navigato l'utente e invece FAPAV ne ha fatto un elenco. Il caso, come dicevo, fa discutere molto in rete. Secondo alcuni esperti, la federazione antipirateria audiovisiva avrebbe spiato i computer di milioni di utenti. Sarà poi il giudice a stabilire chi ha ragione. Intanto però la vicenda ha implicazioni su una buona parte della catena del valore su internet, tanto che anche l'associazione degli internet provider si è schierata dalla parte di Telecom Italia. Sentiamo perché dalla voce del presidente Paolo Nuti. L'associazione è estremamente preoccupata di una deriva nella disapplicazione della direttiva 2031 CE, cioè la direttiva del commercio elettronico, che con molta chiarezza stabiliva quelle che erano le responsabilità dei diversi soggetti che operano su internet. Segnatamente quello che in questo momento ci interessano sono fornitori di accesso da un lato o di connettività, come ormai si scrive, e per quanto riguarda la vicenda specifica i fornitori di piattaforme distributive. Allora, il problema è che la responsabilità del fornitore di accesso non può essere confusa con la responsabilità di un soggetto terzo, in questo caso il fornitore della piattaforma poi utilizzata da chi vuole compiere la violazione dei giusti diritti, perché tra di loro non possono essere confuse. Cioè, se si vuole impedire che una piattaforma dia indicazioni su come scambiarsi dei file, bisogna andare a chiudere la piattaforma, non si può richiedere il blocco dell'accesso al fornitore di connettività, né tampoco reclamare danni a carico del fornitore di connettività. La direttiva è chiarissima, però noi stiamo assistendo già da un po' di tempo a una disapplicazione. Ci sono le autorità che per un'errata interpretazione di quelle che sono le modalità di funzionamento di internet chiedono ai fornitori di connettività di fare dei filtri, di mettere in azione dei filtri. Ora qui bisogna dire con chiarezza una volta per tutte: non esiste alcuna possibilità fisica di filtrare contenuti dal lato della fornitura dell'accesso. Ci sono delle eccezioni a questa regola generale, o meglio, non c'è neanche un'eccezione, bisogna aggiungere se l'utente finale non è d'accordo. Il che significa, se mettiamo dei filtri per la lotta alla pedopornografia, gli utenti sono assolutamente d'accordo e non li aggirano, ma se mettiamo dei filtri per la lotta alla pirateria audiovisiva, gli utenti non sono d'accordo e li aggirano con la massima facilità. Insistere a chiedere provvedimenti, come in questo caso, a carico del fornitore dell'accesso, significa solo continuare a far crescere l'equivoco. Nel caso specifico siete anche preoccupati sulle modalità con cui la Federazione Antipirateria Audiovisiva ha scoperto quante sono le persone che hanno fatto questi download illegali, su quali siti hanno raccolto queste informazioni, eccetera, eccetera. Sì, diciamo, noi riteniamo che le modalità costituiscano quantomeno una violazione della normativa sulla privacy. Certamente la privacy non può essere una giustificazione per il furto o la messa a disposizione illegale di contenuti audiovisivi. Deve essere chiaro questa cosa: l'associazione non vuole difendere chi viola le norme, l'associazione semplicemente riclama che per difendere dei giusti diritti dei titolari dei diritti audiovisivi non si possono però chiedere né provvedimenti non applicabili né si possono violare altre norme. Ecco Nuti, però facciamo un esempio. Nel caso di una piattaforma dalla quale gli utenti scaricano illegalmente file, che siano film, canzoni, videogiochi, eccetera, eccetera, per fermare questo fenomeno, qual è la vostra proposta? Visto che voi dite non bisogna intervenire obbligando i provider, quelli che forniscono ai clienti l'accesso alla rete internet, trasformando questi di fatto in sceriffi della rete. Ecco, qual è la vostra proposta? La nostra proposta è che si faccia una rogatoria internazionale, perché questo problema del blocco delle attività illecite, adesso stiamo parlando di una particolare attività illecita, questo vale per qualsiasi attività illecita, fin tanto che le autorità cercheranno di risolvere il problema degli illeciti su internet compiuti a piattaforme residenti all'estero attraverso blocco sull'accesso in Italia, si perderà solo tempo. Bisogna che ci si convinca, che la pubblica opinione capisca, e quindi il legislatore e quindi la magistratura capiscano che fin tanto che non andiamo a procedere al sequestro effettivo della piattaforma che eroga il servizio illecito a tramite erogatorio internazionale, non andiamo da nessuna parte. Naturalmente, siccome questi parliamo di piattaforme internet, quindi velocissime, siamo nel mondo dell'online, probabilmente bisognerà il più velocemente possibile a raggiungere degli accordi tra gli stati per qualcosa che potremmo chiamare una rogatoria elettronica, perché che deve essere adeguata nel suo esercizio a quella che è la velocità dell'online. Questo è il problema. Stiamo rinviando il momento in cui viene affrontato il problema nella sua interezza, con provvedimenti palliativi che generano distorsione dell'attribuzione delle responsabilità ai diversi soggetti che operano su internet. E questo su questo caso che abbiamo citato, di questo ricorso presentato dalla FAPAV contro Telecom Italia, il parere dell'associazione Internet Provider. Questa è l'ultima parte di 2024, vi ricordo che da questa settimana abbiamo cambiato orario, ci siamo spostati di mezz'ora tra le 16 e le 17 il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Naturalmente ci trovate sempre sul sito internet di Radio 24, www.radio24.it. Vi consiglio sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, in questo modo potete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Molti ascoltatori ci scrivono e siamo contenti delle segnalazioni, ci raccontano le varie modalità con cui riascoltano 2024, chi sul computer, chi si fa un CD e lo ascolta in automobile, chi sullo smartphone, chi sul lettore MP3, eccetera, eccetera. Tra poco parliamo dei body scanner, adesso una notizia che riguarda il passaggio alla TV digitale terrestre, lo switch off, quindi lo spegnimento previsto in Lombardia nella prima metà dell'anno, lo spegnimento delle frequenze analogiche, si farà invece nella seconda parte dell'anno tra il 15 settembre e il 20 ottobre, quindi ha vinto la paura e la possibilità che si potesse creare qualche problema in concomitanza con i mondiali di calcio. Il 21 ottobre toccherà invece all'Emilia-Romagna, ma in questo caso il programma verrà rispettato, toccherà anche al Veneto, al Friuli-Venezia-Giulia, mentre la Liguria dovrà aspettare fino al 26 novembre. Come al solito lo switch off sarà preceduto da una fase di switch over, quindi ci saranno Rai 2 e Rete 4 che passeranno al digitale terrestre e precederanno tutti gli altri canali. Questo avverrà il 18 maggio per la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Niente switch over invece per Veneto e Liguria. Adesso parliamo, come dicevo, di scanner per il corpo. Se ne è parlato molto dopo il fallito attentato di Natale su un volo diretto a Detroit. Questa settimana il governo italiano ha annunciato che l'Italia acquisterà 15 body scanner. Ma che cosa sono e come funzionano? Ne parliamo con Andrea Ascani Orsini, che è responsabile della ricerca e dello sviluppo della Gilardoni. Benvenuto 2024. Buongiorno. Orsini, diciamo subito una parola su il lavoro che voi fate alla Gilardoni. Voi siete in questo business da parecchio tempo e siete specializzati e vi occupate di sicurezza, delle tecnologie per il controllo dei bagagli, e quindi oggi a maggior ragione, assieme alle tecnologie che anche molti passeggeri conoscono se hanno viaggiato in aereo, si aggiunge o comunque si aggiungerà questa novità di cui parleremo tra poco. Che cosa fate oggi? Di che cosa vi occupate? Dunque, noi siamo una delle 5 aziende al mondo che sviluppano e che realizzano apparecchiature raggi X per il controllo dei bagagli, e tra queste stiamo sviluppando sistemi che analizzano gli esplosivi che possono essere portati all'interno del bagaglio e anche in futuro i liquidi. Abbiamo già dei siti di test in aeroporti italiani per verificare come funziona anche l'analisi dei liquidi. Le tecnologie legate a questi strumenti che vengono definiti body scanner, quindi strumenti per la scansione del corpo, sono tecnologie nate e sviluppate prevalentemente negli Stati Uniti. Voi offrite agli aeroporti italiani o comunque a qualsiasi altra struttura ne abbia bisogno una soluzione che si basa su onde elettromagnetiche millimetriche. Noi siamo abituati, quando parliamo di queste tecnologie, a sentire parlare di raggi X. Che differenza c'è tra queste due tecnologie, cioè quella conosciuta, anche se poi magari tecnicamente molti non sanno che cosa avviene dentro a questi strumenti, però diciamo ai raggi X, e invece questi nuovi strumenti a onde millimetriche? Allora, le radiazioni a raggi X, che sono più conosciute perché sono in giro ormai da più di 100 anni, sono delle radiazioni ionizzanti che possono anche arrivare ad alterare le cellule con delle dosi notevoli che non sono quelle presenti nei body scanner, che sono molto più ridotte, mentre comunque le onde millimetriche sono delle onde non ionizzanti, perciò non sono raggi X, sono in un'altra parte dello spettro elettromagnetico e per le potenze che vengono utilizzate non sono considerate pericolose. Esistono tecnologie per realizzare body scanner che utilizzano i raggi X e altre che utilizzano le onde millimetriche. Qual è il risultato finale? Cioè, che cosa è capace di vedere e di scoprire eventualmente uno scanner per il corpo? Dunque, i body scanner hanno lo scopo di identificare i materiali che un passeggero può avere sul corpo. I metal detector trovavano fino a oggi solo gli oggetti metallici, i body scanner evidenziano tutto quanto uno può avere sotto i vestiti, sopra la pelle. Per tutto quanto che cosa intendiamo? Cioè, che cosa riesce a vedere? Che tipo di materiali? Legno, plastica, ferro, che cosa? Diciamo, io non posso entrare nel dettaglio perché questi sono dati segretati a livello europeo, però posso dire che hanno un'ottima capacità di discriminazione. Quindi per ragioni di sicurezza non è possibile, esatto, sapere che cosa poi riescono a intercettare questi strumenti. Esatto, però danno una buona informazione. Senta, una delle cose di cui si discute molto in questi giorni è la riconoscibilità o meno della persona. Fino a che dettaglio riescono a offrire questi strumenti? Ma diciamo che con gli ultimi software sviluppati l'immagine della persona viene completamente camuffata. Per quanto riguarda il prodotto che noi distribuiamo, che è il prodotto Provision, questo è certo, ma anche quello dei concorrenti certamente farà questo tipo di lavoro. Viene data un'immagine sfumata, completamente irriconoscibile, dove però viene identificato chiaramente, viene data una chiara immagine dell'oggetto che eventualmente il passeggero può aver tenuto su se stesso. Questo strumento, diciamo, emette onde elettromagnetiche che si fermano sulla pelle, quindi riesce in questo modo, tracciando le onde elettromagnetiche che vengono restituite e rimbalzate dal corpo umano, a tracciare una specie di ologramma? Esatto, non è che si fermano, le onde millimetriche vengono riflesse dalla pelle ed è per questo, diciamo, sfruttando questo principio che funziona proprio questo scanner. C'è chi discute sulla potenza che viene utilizzata in questi strumenti. Ecco, questa emissione elettromagnetica quanto potente è? Magari facciamo un confronto con strumenti che conosciamo, che ne so, il telefonino. Guardi, le dico che rispetto a un cellulare è un 10.000 volte meno il tipo di potenza che viene utilizzata. Comunque noi abbiamo fornito al Ministero della Salute tutti i dati necessari e poi loro faranno le loro valutazioni. Questi strumenti sono già utilizzati nel nostro paese, diciamo, come test in qualche modo, oppure ancora no? No, non sono ancora utilizzati nel nostro paese, però per contro sono già stati testati in Olanda, in Inghilterra, e sono già installati in svariati aeroporti americani e nelle carceri americane. Orsini, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie, buongiorno. E noi così concludiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo il nostro sito internet www.radio24.it, il podcast disponibile dal pomeriggio di lunedì. Per qualsiasi motivo potete scrivere una email al nostro indirizzo 2024, quindi 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini. Prima di chiudere vi ricordo un indirizzo sul quale potete seguire il dibattito sull'equo compenso SIAE. Ci sono parecchie polemiche, molte critiche dopo l'aggiornamento e anche l'estensione di questa che alcuni definiscono impropriamente tassa, ma che molti consumatori vivono in questo modo. Dicevo, ci sono molte polemiche dopo gli aggiornamenti fatti alla fine dell'anno. Questo è un tema su cui torneremo, perché per molti questo è un provvedimento che frena lo sviluppo e la diffusione della tecnologia, ma i pareri sono tanti e diversi, li ascolteremo nelle prossime puntate. Vi dicevo, se volete seguire il dibattito potete andare su dday.it, www.dday sta per digitalday.it, il sito internet curato da Gianfranco Giardina, uno dei nostri esperti. È tutto per questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione, per essere stati con noi. Vi auguro buon proseguimento con i programmi di Radio 24. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre sabato, tra le 16 e le 17. You are disconnected.